E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La Zanzara, estate, con Alessio Maurizi. 18 e 6 minuti, buonasera, ben ritrovati cari ascoltatori. 800 24 00 24, scaldate il ditino e componete il numero verde per intervenire in diretta anche questa sera. 18, 20 e 30, gli orari della Zanzara estate, 2 ore e mezza in attesa delle vostre incursioni. Cominciamo con i titoli di Sky TG24. Vertice al Ministero su Windjet, Alitalia non vuole riprendere la trattativa. Caso Ilva, Clini riferisce alla Camera, a rischio sistema industriale italiano. Intanto Ferrante fa appello contro le ordinanze del GIP, le proteste vanno avanti. Spending review, Napolitano scrive al governo, i tagli siano equilibrati. La Spagna prende tempo sugli aiuti, Rajoy vedrà Monti, spread in calo. 11 kamikaze in azione strage in Afghanistan, almeno 36 morti. Legambiente si tuffa nel mare d'Italia, l'acqua più pulita in Sardegna e Toscana. Proteste in Supercoppa e Napoli annuncia ricorso contro le squalifiche. Così dunque Sky TG24, intanto della serie, se ve lo siete perso, vi facciamo risentire un pezzettino dell'intervista di ieri sera che ha scatenato una serie di reazioni, per lo più, devo dire, negative su Facebook, ma anche su Facebook tantissime, ma anche ai nostri messaggi 349-238-6666. Ercole Viri, sindaco di Affile in provincia di Roma, che ha da poco inaugurato un paesino di 1500 abitanti, un sacrario in onore di Rodolfo Graziani, il maresciallo dell'epoca fascista, che ha fatto i campi di concentramento in Libia, che ha gasato la popolazione eritrea per stroncare la resistenza civile durante il colonialismo, firmatario anche del Manifesto per la Razza. Io ho detto, usando un'espressione un po' colorita, un grave errore questa iniziativa, 130-150 mila euro, non so più neanche, di soldi pubblici spesi per dedicare una cosa così a un personaggio quantomeno così controverso. Fascisti su Marte, rosso pianeta bolscevico e traditor. Come la mettiamo col manifesto razzista, per esempio? Avrà sicuramente commesso qualche errore. Non è che noi non lo onoriamo perché è un santo, noi lo onoriamo perché è stato un uomo leale, onesto, coerente. Il sangue è color, ed anche a questi alieni ora le reni spezzeremo. A Filippino addirittura c'è un parco, una via e un museo, intitolato Rodolfo Graziani. È lo stesso Rodolfo Graziani, è lo stesso che abbiamo celebrato noi. Perché a Filippino e Nebbiano lei non ha fatto una trasmissione dicendo al sindaco? Perché c'ha, oltre al parco come il mio, finanziato per lo stesso anno 2009 per 200.000 euro, sono gli stessi soldi che hanno dato a noi 130.000, a loro 200.000. Perché, siccome lì c'è il sindaco di Rifondazione, non siete andati a dire come mai? Fascisti. È la regione Lazio, Giunta Marrazzo, che me li ha dati. Io non ho detto datemi i soldi che voglio, mi hanno dato 130.000 euro. Ah, è colpa della regione, allora. Cioè, certo, è la regione che ha scelto. Loro. Ma io non, guarda che io non sono andato con il MIRA a dire datemi i soldi per fare un sacrario. Io ho presentato 24 progetti nel 2009 e loro me ne hanno finanziati due, tra i quali il Parco Radimontevole. Non è colpa mia. Ma a cosa serve in un paese di 1500 abitanti un parco fantastico con questa spesa folle? Ma quale poi spesa folle? 130.000 euro per un gioiello che abbiamo creato? Quale è spesa folle? Le spese folle sono altre. Irrevocabile conquistator del sangue e color. 800 24 00 24, questo. Ieri è intervenuto anche qualche ascoltatore, uno soltanto uno ha entrato a così, diciamo, a sostegno di questa iniziativa di Affile. Certo, ci ha ricordato anche un altro ospite, un'iniziativa votata da consiglieri comunali eletti, quindi non c'è niente da dire dal punto di vista democratico. Beh, certo, però dal punto di vista dell'opportunità c'è tanto, secondo me, da dire. Un'altra vicenda controversa: diventa agente anti-Equitalia, una pagina acquistata oggi sul Libero da Angelo Pisani, l'avvocato napoletano, avvocato tra l'altro di Maradona. Nasce il partito o il movimento, adesso lo vedremo anche di capire con lui, Anti-Equitalia, testimonial niente proprio di meno che Diego Armando Maradona, che con il fisco italiano ha un contenzioso che ormai raggiunge i 40 milioni, sfiora i 40 milioni di euro. Così Pisani qualche tempo fa spiegava la nascita di questo movimento che oggi è rilanciato con una pagina sul Libero. La legge italiana ha imposto dei metodi che sono violenti e temerari, che hanno ossessionato e portato alla disperazione tutti i contribuenti, da Maradona al semplice operaio. Noi difendiamo tutti i cittadini italiani, oggi nascono gli studi anti-Equitalia, che sono organizzazioni di professionisti al fianco dei cittadini e dei contribuenti per spiegare loro quali sono i loro diritti, che cosa devono, come devono tutelare le proprie ragioni. E lo sentiremo tra poco, 800 24 00 24, il avvocato napoletano Pisani con il suo partito anti-Equitalia. La vicenda dell'Ilva avete sentito anche dai titoli di Sky TG24, anche dal giornale radio. Ha parlato Clini oggi, ha messo un po', ha puntualizzato qual è la posizione del governo. Sentiamo la questione più importante, che è quella adesso del conflitto con la magistratura. Nessun conflitto, nessun braccio di ferro, è solo, dice Clini, una questione di competenze. Palazzo Chigi sta valutando insieme con l'Avvocatura dello Stato la possibilità di sollevare il conflitto di attribuzione. Non è una decisione polemica nei confronti della magistratura, ma è una decisione finalizzata a chiarire i rispettivi ruoli. E questa dunque la voce di Clini oggi in Parlamento sulla questione dell'Ilva. Salutiamo Gianfranco Miccichè, buonasera. Buonasera, come va? Abbastanza bene, grazie. Ma posso farvi una domanda io prima che me la facciate voi? Sicuramente, poi non ne faremo molto. Ma Cruciani e Parenza? Cruciani e Parenza sono in vacanza, invece al contrario di me e di lei che siamo qua, almeno io a lavorare, lei non lo so, dov'è tra l'altro? Io dico sempre che fare politica è duro, ma è sempre meglio che lavorare. Ah, viva l'onestà, però, viva l'onestà. Però il brutto, l'unica cosa veramente brutta è che non sì. riesci a prenderti manco 5 ore di vacanza consecutive. Sempre meglio che lavorare, però non è proprio insomma il massimo sentirselo dire, era una battuta, no, ovviamente. Capito, è una battuta. Con Parenzo siamo abituati a questo sì. tipo di battute. Attenzione, perché adesso io non sono questa come loro, battuta, sono più cattivo. È una battuta che io imparai quando sì. ero giovane funzionario di Publitalia, una volta che incontrammo come si chiama, il cantatore genovese che è morto, Bruno Lauci. Sì. E Bruno Lauci disse che fare il cantante era sempre meglio che lavorare. E allora lei l'ha mutuata anche per e sé. E allora io l'ho mutuata, esattamente. Sì. Però fare il cantante in effetti è sempre meglio lavorare. Il politico, fare il politico dovrebbe essere impegnato. Dovrebbe però, Miccichè, dovrebbe essere, perché insomma, di questi tempi non è che godiate di una grande fama, tra l'altro. No, pessima. Io devo dire che personalmente, come dire, ho se la cava. Un curriculum da presentare, perché tantissime cose sono state realizzate, ho sempre lavorato moltissimo, ma non mi posso, come dire, isolare rispetto all'idea che c'è sulla politica per adesso e che è corretta. Questo devo essere sincero, perché la politica nel suo insieme, e quindi me compreso, comunque dà un'idea di sé onestamente molto molto negativa. Lei dice che ha un curriculum che sta venendo qua in Sicilia, però non è ancora una volta una conferma. Adesso infatti di questo parliamo, è proprio della Sicilia. Lei ha un curriculum, diceva, ha un curriculum intanto, perché insomma è dai tempi appunto di Pubblica Italia, poi Forza Italia, anche dal punto di vista politico. Politicamente parlando, sì. Feci una campagna elettorale promettendo sì. tutto il mio impegno perché si potesse realizzare la Palermo-Messina, per esempio, che era ferma da 40 anni, quell'impegno riuscì ad andare in porto e finalmente si riuscì a fare la Palermo-Messina, la stessa cosa con la Catania-Siracusa. Ricordo quando io iniziai a fare politica a Palermo, che è la mia città, noi avevamo l'acqua 4 ore ogni 2 giorni, non c'era casa di un palermitano o di una palermitana che non avesse la cisterna per raccogliere quanta più acqua possibile in quelle 4 ore, e guai a dimenticarti. Mi ricorda però, si ricorda il film Johnny Stecchino, Micichè, quando faceva il grosso problema della Sicilia è il traffico, la siccità. Perché in Sicilia ci sono altri problemi, il buco del bilancio di Lombardo, la mafia. Adesso però di questo parliamo, Micichè, perché poi voglio ripartire dal curriculum, perché lei ha detto un curriculum importante, lei fa politica da tanti anni. Allora la prima domanda che le faccio, poi sentiamo il traffico, dopo mi risponde, è se questo curriculum adesso non potrebbe essere un po' ingombrante, perché mentre Berlusconi tentenna se mi candido o non mi candido, lei credo che abbia sciolto la riserva, si candida in Sicilia, però c'è qualche resistenza perché qualcuno vorrebbe facce nuove, mi corregga se sbaglio, qualcosa, perché insomma prima di tutto ci deve dire se si candida, perché già un tempo fa lei quando sostenevate Cuffaro, poi ci fu la vicenda della condanna per favoreggiamento, voi toglieste l'appoggio e poi lei disse mi candido, poi non si candidò perché sbucò fuori Lombardo. Adesso facevo parte di un partito che si chiamava Forza Italia o meglio era appena, credo, nato il PDL in quel momento, o forse era ancora Forza Italia, non mi ricordo, ma non ero io, come dire, facevo parte di un partito, quindi io mi volevo candidare, il mio partito allora decise diversamente e io ho dovuto, come dire, obbedire, perché non avevo né la possibilità né le forze né una lista per potermi candidare da solo per i fatti miei, sarebbe stata un'operazione alla Don Quixote che non avrebbe portato a nulla. Parliamo del 2008. Oggi è diverso, perché io oggi ho avuto un'investitura dal mio partito, dal partito di cui faccio parte, che è il Grande Sud, con una grande manifestazione che c'è stata a Catania meno di un mese fa, e con cui mi è stato chiesto di candidarmi e io ho accettato, per cui io sono candidato. Poi se qualcuno, quello che noi abbiamo fatto è quello di aprire a chi volesse appoggiare questa candidatura, se poi non l'appoggia il PDL, ma se si va avanti lo stesso. L'altra volta io ho dovuto fare un passo indietro perché io avevo una candidatura che avrei fatto con mio partito. Ma c'è l'investitura, come non avevo che fare, come credo che lei abbia detto, di Berlusconi? Cioè lei avrebbe parlato con Berlusconi, lui le avrebbe detto di andare? No, ma questa volta, se mi posso permettere di dire, dopo la mia candidatura nata, ripeto, all'interno del mio partito e quindi presentata con una grande manifestazione che c'è stata a Catania, successivamente il segretario nazionale Alfano e anche alcune telefonate di un altro uomo ovviamente importante e determinante del PDL siciliano, che è il presidente del Senato Schifani, e poi con chiamata diretta del presidente Berlusconi mi è stato chiesto di essere il candidato di tutto il centrodestra. Io ovviamente ho aderito con piacere a questa proposta, dopodiché se invece ora ci hanno ripensato, niente di male. Basta io non ho notizie di questo tipo. Ci sono per me che qualcuno chiedeva le primarie, per esempio. Un partito così importante, ai massimi dei suoi vertici, decide una cosa e poi bastano 2 o 3 persone che hanno mal di pancia che frenano. Io a quel punto devo immaginare che o il partito ha realmente intenzione di fare quella scelta e quindi dice mi dispiace di questo mal di pancia, oppure troveremo le medicine per fartelo passare. Vabbè, la nostra scelta è questa, la nostra decisione è questa, si va avanti. Sappiamo, se non è così, devo pensare che tutta questa voglia, come dire, che tutta questa voglia di fare questa scelta non c'era sin dall'inizio, immagino. perché se no non considererei possibile il fatto che i massimi vertici, si vede che quando me l'hanno proposta gli stessi vertici non fossero così convinti evidentemente. Senta, insomma, Micichè, io non mi chiedo problemi, non hanno dei... tutto il diritto e tutta la legittimità ovviamente di scegliersi un candidato loro, per me va benissimo. Sì, va bene, insomma, poi si sa che in politica è tutto vero quello che è vero oggi, perché poi domani non potrebbe cambiare tutto. Il suo possibile o probabile o più importante avversario, credo, Crocetta, Rosario Crocetta, sì, che è sostenuto dal PD e dall'UDC, ha detto che non metteranno indagati per mafia in lista, non condannati, ma indagati. Cioè un codice etico molto spinto, se vogliamo. Siccome al di là della questione dell'acqua, che lei ci ricordava, che sicuramente in Sicilia è un problema, c'è anche l'altro problemino, quello dell'illegalità e la vicenda lombardo, non tanto sull'illegalità, ma quanto sugli sprechi legati a certa corruzione. Però mi sembra che ci dice qualcosa che abbiano loro. Lei che farà? Scusi, io non so questo codice etico che abbiano loro, perché leggo tutti i giorni sui giornali che da parte di Crocetta non ci sarebbe nessun problema a fare l'alleanza con l'MPA di Lombardo, anzi. Diciamo che l'alleanza è un conto, il codice etico è un altro, per cui se loro dicono che l'UDC ha sposato questo codice etico, quindi questo dicono loro, poi si vedrà. Secondo me è giusto che si faccia. Lei è d'accordo? È giusto che si faccia, poi però ci sono delle indagini che sono oggettivamente assolutamente fuori dal mondo. Per esempio? Appunto, io credo che ci sarebbero partiti, il mio no, ma dico lo posso applicare immediatamente, ma ci sarebbero partiti dove oggettivamente, secondo me, non ci sarebbero candidati, perché sono tutti una indagati. Serie di indagati esistono. E poi siamo troppo abituati, io ricordo ai tempi di Ciccio Musotto, che era indagato, processato, arrestato per mafia e poi dichiarato assolto totalmente. Vabbè, no, ma è una scelta, vede, sì, Micichè, processato, sì, e richiesta di arresto, era parlamentare, non lo potrò fare, poi morì, poverino, il giorno dopo che seppe che era stato assolto in primo grado totalmente. Per cui, voglio dire, è un codice etico che sarebbe assolutamente corretto se fossimo in un paese normale. In ogni caso capisco che comunque bisogna dare questo segnale, ed è un segnale che in qualche maniera va dato, per cui che si faccia pure. Ma insomma non mi commuovo, sì, rispetto a questo tipo di azioni, come dire, perché onestamente... Cioè voi dite va bene per Crocetta, ma non per... Mettere totalmente nelle mani della magistratura, perché l'indagato... Basta che un magistrato dice ho dei dubbi, poi non ho capito se lei decide la magistratura chi è che si deve candidare e chi no. Se la sua lista lo farebbe una cosa così, oppure per le ragioni che ha detto no. Io sicuramente un codice etico sono pronto a firmarlo, che non sia un codice etico che mette nelle mani totali delle procure i nomi dei candidati. Questo è indagato. Io credo di non esserlo in questo momento, ma magari domani ho scopo di esserlo. Ma questo vale anche per Crocetta, Crocetta, perché se per caso è indagato allora non si candida più. Sa qual è la situazione qua in Sicilia? Che in tutte le altre regioni, dal Lazio in su, ma in Puglia compresa e Abruzzo compresa e quant'altro, ci sono indagini perché uno può avere preso una tangente. Qui appena hai fatto qualcosa del genere, comunque sei indagato di mafia. E non so se è chiaro, per cui qualsiasi indagine in Sicilia viene comunque classificata come indagine di mafia. Allora, ripeto, è comunque grandissima responsabilità di chi fa le liste avere gente per bene, sì, di cui ha certezza di pulizia e di cui ha assoluta certezza, non approssimativamente, ma assoluta certezza e garanzia di lontananza da certi ambienti. Senta, poi sì, vuole fare un codice etico, oh, io sono pronto a firmarlo in qualsiasi momento, perché sia un codice etico serio e non una cosa tanto per fare parlare, tanto per fare demagogia. Poi insomma ognuno sceglie il codice etico che crede, non è che è obbligatorio, insomma questa è un'iniziativa di Crocetta, io l'ho chiesto che ne pensava, lei ha risposto. A proposito di, diciamo, di critiche che sono arrivate sulla sua candidatura dal centrodestra, c'è quella, io poi non ho capito bene questa associazione Giovane Italia, se è effettivamente i giovani del PDL in Sicilia. Mauro Lamantia, ci vuol parlare con Lamantia, perché noi lo vogliamo sentire, cioè se lei mi dice che non ci vuol parlare perché non sa chi è, perché bim bum bam, io sinceramente non so chi sia, mai visto, noi mai ci parliamo dopo e intanto finiamo l'intervista con lei. Se invece lei è uno che è stato una volta candidato alle provinciali a Palermo, è arrivato ultimo, ma non so, che veramente non lo conosco, non so se alto, basso, giovane. Potrebbe essere un'occasione per conoscerlo, perché noi appunto lo volevamo sentire, perché è uno di quelli che dicono, cioè, ieri abbiamo sentito uno dei formattatori del PDL che per la verità ha detto che Miccichè, sì, vabbè, certo è un bel nome, certo le primarie non ci sarebbero dispiaciute, allora c'è un po' quest'area. Il formattatore era Giorgio Silli. Chi? È uno dei quattro fondatori dei formattatori. È presente i formattatori? No, I formattatori del PDL. Del PDL, sì. Quindi, no, per la verità ha detto Miccichè, certo è un bel nome, un politico di rango per il centrodestra, per il PDL va bene. Certo, le primarie non ci sarebbero dispiaciute. No, ma vede, le primarie, se non senti, le primarie sono un qualcosa, secondo me, di assolutamente democratico e corretto, laddove c'è la cultura e le primarie, laddove c'è un partito, cioè i repubblicani, i democratici negli Stati Uniti fanno le primarie in un partito. Sì. Io ho per tantissimi anni, sono stato a capo di Forza Italia quando c'erano CCD, CDU e Alleanza Nazionale. Se vuoi tenere una coalizione non puoi fare le primarie, perché è evidente che il partito di maggioranza rispetto al partito di minoranza, le primarie naturalmente, diciamo, le vince sempre. Se tu ragioni in termini di primarie di alleanza, vuol dire che di fatto stai comunicando ai partiti minori di andarsene, perché è evidente che se io ho 10.000 tessere e tu ne hai 1.000, andiamo a fare le primarie, chi vuoi che vinca, quello proposto da chi ha 10.000 tessere o quello proposto da chi ne ha 1.000. Allora, se secondo me le primarie fatte così, infatti vedete quello che succede dalla sinistra, ogni volta che fa le primarie sono spaccature, triplici candidature e quant'altro. Perché non ha logica, perché non ha senso. Cioè, mi dica solo, anche sulle primarie ha risposto, mi dica solo se ci vuol parlare con Lamantia, perché l'abbiamo in linea anche lui. No, io non ci vuole parlare? Non conosco. Non vuole approfittare dell'occasione per conoscerlo, perché lui avrebbe delle cose da dire, è uno che fa politica nel centrodestra siciliano. Una volta una sua agenzia mi è bastato, per cui non, sinceramente, poi la prego, non mi metta in imbarazzo, non mi faccia. No, era gustoso, sarebbe stato gustoso l'incontro. Se volete parlo con Alfano, parlo con Schifani. Cioè lei ha altri referenti più importanti. Sinceramente non so chi sia. Vabbè, adesso allora lo sentiremo dopo che ci non salutiamo. È molto corretto che voi lo sentiate dopo. Perché lo sentiamo, poi vi che cosa dirà questo su di me, ovviamente. Ognuno, ma non è importante. Io gli ho proposto infatti di sentirvi insieme, così, perché sarebbe stato gustoso. Se voi fossi stato, vede, allora mi devo fidare di più di Cruciani e Parenzo. Secondo perché me lo sì. Dico molto sinceramente, perché Cruciani e Parenzo una cosa di questo genere non avrebbero detto prima. Ti mettiamo in confronto con. Sì, sì. Lo vuoi fare questo confronto? No, però io le dico la verità, Miccichè, io gliel'ho proposto, no. Perché lo volevo fare, se non lo volevo fare non partecipavo, ma io infatti lei non me lo può dire mentre siamo intervistati, no, queste sono regole di l'etica, mi faccia parlare, Michele, non la dobbiamo stare molto attenti in politica, sì. Dobbiamo fare grande attenzione all'etica in politica, forse dovreste farla altrettanto voi giornalisti, ma insomma, ma guardi, io sono tranquillo, ma però mi faccia spiegare, scusi, siccome sta insinuando che io le ho teso una trappola, no, io siccome ci tenevo a fare l'intervista con lei perché è candidato del centrodestra, eccetera, in Sicilia abbiamo sentito Crocetta l'altro giorno, quindi io volevo essere sicuro che lei avrebbe partecipato. Se io dicevo che c'era la mantia, probabilmente lei mi diceva: ma non ho voglia di stare a parlare, come infatti mi ha confermato. Allora io correttamente quindi faccio l'intervista con lei e poi faccio un'altra intervista dopo. Con un altro candidato e ci confrontiamo con un altro candidato, ma con uno che mi ha, che io non so chi sia, e ha potuto scrivere tutte le offese e tutte le ingiurie possibili e immaginabili, lei mi dica io che cosa gli devo dire, se manco lo vedo, se manco gli posso parlare. Quindi, ripeto, è un'operazione che, di cui vi assumete la responsabilità. Ma non è nessun, guardi, non la facciamo l'operazione, perché noi non facciamo le cose contro, no? E quindi sinceramente che... ma lo dico non per offendere lei, perché non ho nessuna voce e io non la conosco. Non ci sarebbe neanche motivo, amici. Che sinceramente con Parenzo, che è un cattivo, con Cruciani, che è un cattivo, che è di quelli che si mette anche in imbarazzo rispetto a alcune domande, ma che io affronto sempre con piacere, probabilmente questa situazione non si sarebbe creata. Ma ripeto, ma guarda, non si è creata nessuna situazione, adesso siamo legittimato a fare quello che vuole. Ma cosa a fare, cosa, scusi, Biciche, io le ho proposto di parlare con una persona che pubblicamente ha espresso critiche sulla sua candidatura, basta, lei non ci vuole parlare, non ci parla. Scusi, ma lei quando ha invitato Crocetta non ha invitato, non, ma io invito chi mi pare, scusi, Biciche, che non lo vogliono, sì. Fatto l'intervista a Crocetta, oggi la fa a me, domani la farà un altro candidato. E così ne faremo altre mille. Dire, però adesso dobbiamo fermarci perché... Purtroppo non so chi sia, perché sì, se lo sapessi lo saluterei pure, ma fisicamente... Se resta in ascolto, tra poco lo saprà, perché gli chiederemo di presentarsi. Michele, io però vorrei concludere, a parte la questione della mantia che non è preponderante in questo momento. Abbiamo la borsa, siamo in ritardo. Resti con noi, facciamo un'ultima questione, un'ultima domanda sulla Sicilia, ci dica il primo punto del programma di Michiche per la Sicilia. Bye bye, Michiche ha messo giù, non so se è caduta la linea o se lui ha messo giù, se è caduta la linea magari lo richiamiamo, ma se invece ha messo giù, forse non aveva capito, volevo fargli una domanda sulla priorità del suo programma elettorale per la Sicilia. Evidentemente però forse l'ha detto, si è offeso per quella che ha chiamato un'operazione nei suoi confronti. Nessuna operazione. Mauro Lamantia, buonasera, eccolo qua, lo salutiamo subito, presidente della Giovane Italia Sicilia, associazione politica del centrodestra. Che cos'è esattamente la Giovane Italia? Così si presenta agli ascoltatori. Giovane Italia è l'organizzazione giovanile ufficiale del partito, ecco, non è una semplice associazione, ecco. Sì, la sentiamo un po' malino, può ripetere, scusi? È la Mantia? Pronto, sì. Pronto, sì. Allora, ci può ripetere, allora, è l'associazione? Allora, Giovane Italia è l'organizzazione ufficiale, il movimento giovanile ufficiale del Popolo della Libertà. Mm. E lei è il presidente per la Sicilia di questa organizzazione? Io sono il presidente per la Sicilia, sì, esatto. Ecco, avremmo voluto fare il confronto, cioè avremmo voluto, abbiamo proposto di fare il confronto con Michiche, ma non importa, ci saranno altre occasioni pubbliche, perché insomma in Sicilia sicuramente per parlare tra di voi. Noi l'abbiamo convocata perché a fronte di questa candidatura... è tornato Michiche? Pronto? Eccolo, Michiche. Eccoci. Ah, meno male, sono contento. Era caduta la linea. Pensavo si fosse offeso, a dire la verità. Io non mi offendo mai. Si figuri se non mi offendo. È un uomo di spirito. Se dovessi offendermi con tutte le cose che mi dicono, passerei la vita a fare l'offesa. No, assolutamente mai. Benissimo. Allora, io stavo domandando a Mauro Lamantia questo, cioè... Come si chiama di nome? Mauro Lamantia. Ah, grazie. Presidente. Buonasera, presidente. Come? Ha detto buonasera. Fin qua non è successo nulla ancora. Non ci mettiamo lì sul chi va là. Tra l'altro ha detto che è presidente dell'organizzazione dei giovani del PDL in Sicilia, quindi non è esattamente uno sconosciuto da questo punto di vista. Lamantia, però, bando alle ciance, qual è il punto politico? Perché voi volevate le primarie, volevate facce nuove, che cosa è che volete voi giovani del PDL in Sicilia? intanto voglio correggere un attimo l'onorevole Miccichè, in realtà un punto di contatto qualche anno fa c'è stato fra noi due, perché concordammo quando allora eravamo, lui era in Forza Italia, in Alleanza Nazionale, su una posizione molto critica nei confronti dell'ex governatore della Sicilia Cuffaro. Vabbè, ma non andiamo però a rivangare il passato, Lamantia, se no non ne usciamo vivi. Va bene, ha specificato no, questo. No, nel senso che lei non è vero che concordammo in alcune posizioni, anzi ricevette anche dei complimenti da parte del onorevole Miccichè, allora, quindi comunque c'è stato anche un rapporto passato, ecco, no, ci vengono a sottolineare questo, ecco. Però veniamo all'oggi, Lamantia. Lei ha scritto, è intervenuto, ha preso delle posizioni, eccetera, eccetera. Qual è il punto? Voi volete le primarie, volete facce nuove o va bene Miccichè, per esempio, per voi giovani del PDL dell'isola? Ma guardi, noi insieme a tutto il partito votammo a giugno al coordinamento regionale, l'ultima riunione del coordinamento regionale, l'idea di celebrare le primarie di centrodestra in Sicilia proprio a giugno, quando già era nell'aria, diciamo, il voto anticipato in Sicilia. L'abbiamo proposto a tutto il centrodestra, quindi anche al partito di Miccichè, anzi immaginavamo la partecipazione alle primarie della Miccichè, e proprio Grande Sud, legittimamente, voglio dire, non ogni partito ha la sua posizione, ha deciso di rifiutare, ecco, quel tipo di proposta. Per noi era una soluzione migliore, ovviamente, fermo restando comunque che nel momento in cui, ecco, il centrodestra ha scelto di non fare le primarie, noi comunque, come non soltanto come Movimento Giovanile, ma un po' tutto il partito, chiedevamo, ecco, una candidatura, ecco, che fosse di rottura con il vecchio, diciamo, il governo lombardo dimissionario. Perché Miccichè non è abbastanza di rottura? Che cos'è? Ma guardi, Miccichè anche lui legittimamente nel 2009 ha fatto una scelta anche di allontanarsi con una scissione dal partito e di appoggiare per un periodo lombardo, poi anche lui successivamente uscì col suo partito dalla giunta lombarda, però ecco, nel 2009, ecco, c'era la possibilità, nel momento in cui il PDL decide di non sostenere più all'AS lombardo, ecco, è il momento giusto per fare cadere, seppur dopo appena un anno dalle votazioni del 2008, far cadere il governo lombardo. Ecco, allora c'erano i numeri e probabilmente avremmo evitato alla Sicilia 4 anni di malgoverno, che sono sotto gli occhi di tutti. Ecco, la Sicilia è quasi in default, voglio dire. Ecco, vabbè, insomma, come vede Miccichè, non è che ci sia molto da spaventarsi, perché... Mi scusi, posso intervenire o devo solo ascoltare? No, no, infatti è il suo momento. Ecco, allora, siccome mi fa piacere a questo punto che ci sia Lamantia, perché così diciamo quali sono le verità che mi piace dire, perché veramente si riesce a girare la frittata in una maniera assolutamente straordinaria. Allora, io vorrei ricordare al giovane Lamantia che in quell'occasione io avevo proposto, come abbiamo discusso poco fa, la mia candidatura. Mi fu detto di no, perché c'era da candidare questa persona straordinaria che si chiamava Raffaele Lombardo. Io, contrariamente a come stanno facendo altri in questo periodo, mi sono fatto il segno della croce, mi sono messo la mia giacchetta e la mia cravattina e sono andato a fare campagna elettorale per Lombardo, perché era quella l'indicazione del partito. Tre mesi dopo che avevamo eletto Lombardo tutti insieme, il PDL, con un'azione oggettivamente un po' schizofrenica, senza parlarne con nessuno, decide improvvisamente di togliere l'appoggio a Lombardo. Bene, io che in quel momento avevo già costruito un'alternativa al PDL, in quel momento si chiamava PDL Sicilia, non era ancora nato il partito, perché un partito non si fa in una settimana, ma mi sembrò una cosa folle e decisi, ovviamente avendolo votato 3 mesi prima, mi sembrava folle. Stiamo facendo per la storia della politica siciliana. Io infatti volevo... Non senza governo, Lamantia, perché per fare cadere Lombardo ci vogliono, come lei sa bene, 46 firme di parlamentari, non ci vuole un capo partito che decide di andare all'opposizione, tant'è che noi siamo stati al governo con Lombardo con una minima minoranza, nemmeno una bella minoranza, eravamo 30 su 90, PDL Sicilia, Lombardo, alcuni di Alleanza Nazionale, eccetera. Quindi se quella, la nuova maggioranza avesse voluto fare cadere Lombardo, non aveva bisogno dei voti in più di Micichè. Però Micichè, adesso abbiamo fatto il corso di storia di politica siciliana. Ma Lombardo non sarebbe caduto mai. Io ho ritenuto di fare una cosa diversa rispetto alla schizofrenia. Dopo tre ma mesi oggi che la Mantia l'accusa di essere in continuità con l'ultimo governo dell'isola che non... Dopodiché, quando il governo Lombardo decise per allargare la sua maggioranza di far aderire a questo governo anche il PD e la sinistra, noi invece coerentemente ce ne siamo usciti, perché abbiamo ritenuto che la sinistra non fosse la nostra area geografica dal punto di vista politico, e quindi se erano insieme al PD se ne restassero insieme al PD. E quindi voglio dire, non c'è stata nessuna manovra da parte mia, niente di quello che ha detto avanti. Ovviamente mi fa piacere chiarirlo, perché così, siccome adesso lo ripetono tutti questo film, il film vero è che io ho subito da parte del PDL la richiesta di votare Lombardo, l'abbiamo votato. Sì, però questo avveniva nel 2008, adesso siamo nel 2012, io non ho ancora capito se lei è in continuità o in rottura con Lombardo rispetto a quello che diceva la Mantia, perché proviamo a dare una risposta di 30 secondi, Micichè, perché se no ci perdiamo. La Mantia parla da giovane con grande, come dire, coerenza, ma il suo partito farebbe l'accordo con Lombardo, almeno 4/5 del suo partito farebbero l'accordo con Lombardo domani mattina. Per quanto mi riguarda, io non ho da fare nessuna continuità o discontinuità, perché non ho fatto parte negli ultimi 4 anni del governo Lombardo, ne ho fatto parte per un anno. Ok, chiaro, mi sembra una risposta chiara. Ma dico, questo sì. Non mi interessa, perché interessava l'altro, la Mantia. Qualcuno in discontinuità col governo Lombardo. Sa, ognuno ha i gusti che crede, Micichè. Sì. Di fatto con Lombardo in questa legislatura c'è stato il PDL, Grande Sud, l'UDC. Sì, però basta, Micichè, non mi interessa la storia della giunta Lombardo. Ha detto quello che voleva dire. Io sa perché mi piaceva l'idea di fare, perché è una delle poche occasioni che capitano di discussione interna nel centrodestra, dove invece a volte pubblicamente non ci si... Se vuole non fare discussione interna al centrodestra deve fare all'interno del PDL. Però lei nel PDL c'è stato per un bel po' di anni, insomma, è un uomo di Berlusconi, questo è il giovane del PDL, quindi più PDL di così non sapevo come fare. Vabbè, la Mattia, non so se vuole aggiungere qualcosa, però in 30 secondi, perché poi chiudiamo, altrimenti facciamo troppo Radio Sicilia, anche se è interessante naturalmente. Prego. Guardi, semplicemente questo. Noi anche un saluto, anche un saluto agli ascoltatori, così sì. Per chiedere appunto al PDL di esprimere una sua candidatura. Io sono d'accordo quando il CIPE dice che nel 2008 il PDL fece il grande errore di cedere a un altro partito minore, allora era l'MPA, la candidatura alla presidenza. Sono d'accordo con lui, nel 2008 sbagliamo. Oggi siamo nel 2012, il PDL non deve fare gli stessi errori e deve, visto che nel centrodestra il partito che ad oggi nei sondaggi, ma anche nell'ultimo amministrativo, insomma, è il partito principale del centrodestra, deve assolutamente, secondo noi, esprimere una candidatura autorevole. Vabbè, senti, sentite, facciamo così, se volete, salutatevi, promettetevi che nelle sedi siciliane avrete modo di parlarvi. No, scusi un attimo, devo dire una cosa soltanto alla Mantia, sì. Che siccome sono più grande di lui, mi permetto di dargli questo consiglio. Questa sua idea che il PDL debba candidare un suo uomo è più che legittima, la può fare anche senza offendere. Senza offendere me, che non sono del PDL e che comunque sono candidato. Io non ho fatto alcuna offesa, nei miei comunicati non c'è alcuna offesa, e anzi ho proprio in questa in questo confronto ho cercato anche di, diciamo, di portare, ecco, i punti anche di unione che ci sono tra di noi. Non c'è alcuna offesa. Stringetevi la mano virtualmente, salutatevi, perché... Ma dico, non ha importanza, non ha nessuna importanza. Ecco, salutiamoci e salutatevi, perché lo spazio è finito. Michiche, sì. Si fa esprimendo le proprie idee, senza, perché non è previsto dalla legge, che sia obbligatorio offendere... Vabbè. Io non mi fermerei qua, eh? Abbiamo dedicato abbastanza spazio. Grazie a tutti per aver partecipato. E ripeto, spero che nelle sedi siciliane, dove magari c'è più interesse anche per queste vicende del passato, possiate parlare e così venirne a capo, insomma. Ammazza, la Sicilia è complicata, è proprio il vero che il barocco è siciliano, insomma, e quindi capirci qualcosa non è facile, ci abbiamo provato, insomma. Comunque spero che ce ne diate atto, almeno da questo punto di vista. Vedo che i messaggi al 349-238-6666 vanno in questo senso, operazione quantomeno apprezzata dagli ascoltatori, che andiamo a sentire. Iniziamo con i vostri interventi. 800 24 00 24. Giuliano da Reggio Emilia, buonasera. Buonasera, complimenti alla trasmissione, un saluto agli Grazie. Italiani in ascolto. E pochi superstiti alla vigilia di Ferragosto che non sono in vacanza, che poi non si capisce mai se gli italiani sono in vacanza se c'è la crisi o no, è un mistero. Ascolti, fate discussioni talmente interessanti che riesco a dire, se posso, due parole sul maresciallo Castiglione, per collegare un po' che ti volevo dire. Non si sente, Giuliano, proviamo a rimetterlo in linea meglio. Voleva intervenire sul maresciallo Graziani, questo si è capito, ma il resto no. E nel frattempo andiamo a Francesco da Milano, buonasera. Eccoci qua. Dunque, buonasera ancora. Io telefono dopo, avendo chiamato ieri, dopo aver sentito l'assessore di Prato, che aveva stilato questa classifica in merito... Il formattatore del PDL, quello che citavamo anche con Michiche. Sì. Perché te l'avevo telefonato? Telefonato per tranquillizzare gli italiani, non tanto lei... Che in Italia non succede niente. Allora parto dalla fine del mio comunicato, che è questo: per voi l'aver fatto un governo tecnico non è aver portato i libri in tribunale, primo. Secondo, le primarie non ci saranno mai, e lo dimostra il fatto che il nostro Presidente del Consiglio Monti attuale chiama periodicamente il Bersani, che io giudico senza se senza ma, il Casini, il Bell'Antonio, il Berlusconi, per dirgli chiaramente: state calmi, state fermi, non fate sciocchezze. E allora cosa succede? Se si facessero primarie con le nuove idee, con le nuove logiche che si sente sbandierare, ma cosa fa? Automaticamente cade il governo, perché questi rottamati non voteranno più. No, di conseguenza non può succedere niente, italiani, state tranquilli, fate le pere con calma. Tanto fino al 12 settembre, a seguito del risultato di Castro, forse potremmo avere dei timori, delle paure o delle certezze. Ma fino a quel punto lì non succederà mai niente. Chiaro, netto e tondo. Il Parlamento è lì solo per votare. Farei una preghiera al presidente Napolitano di incaricare, anziché aiutare a tenere a galla tutte queste belle stupidaggini che dobbiamo assorbirci tutti i giorni, è un teatrino, va bene per voi giornalisti, no? Perché vi inzuppano le trasmissioni, no? Di incaricare il Parlamento fino a che il nostro Presidente del Consiglio Monti dirà: potete tornare a giocare, fino a quel punto a delegiferare la situazione italiana. Non continuare a pensare di fare cose che non servono. Grazie, grazie Francesco. Mi sembra che abbia espresso chiaramente il suo punto di vista. Avevamo un ballo, un ascoltatore, lo sentiamo dopo, perché ci ha raggiunto il nostro prossimo ospite, lo vogliamo introdurre con una sigletta che gli abbiamo dedicato. Vai, sentiamola. Angelo Pisani, buonasera. Buonasera a voi, grazie per la sigla. La sigletta l'ha apprezzata, lo sapevo. Presidente, grazie, del movimento Noi Consumatori Anti-Equitalia, nonché ancora in Italia legale di Maradona. Sì, sì, ancora, perché siamo appena agli inizi della maxi causa contro il fisco per liberarlo, diciamo, da un contenzioso mostruoso che ha raggiunto i 40 milioni di euro perché per la mora, no? Perché sono sì, cresciute, sì, per gli interessi. Si tratta di 34 milioni di euro di interessi per un fatto che non esiste, Maradona è completamente estraneo, ma viene utilizzato come nome, come pubblicità per la lotta all'evasione dal fisco italiano. E lei fa l'opposto per la lotta contro Equitalia, perché Maradona, non so se convintamente, ma credo di sì, è testimonial di quello che non abbiamo bene capito se è un movimento, un'associazione di consumatori o un partito. Adesso lei ce lo spiegherà, Pisani, perché oggi cos'è che ci ha incuriosito di nuovo? Una pagina che lei ha acquistato, credo, pagando sul libro, perché è evidentemente una pagina di pubblicità, diventa agente anti-Equitalia, check-up gratuito della tua posizione debitoria, liberati da Equitalia, rivolgiti alla sede più vicina a casa tua, avvocati fiscalisti al vostro servizio, è ora di difendersi, c'è tanto di logo, Noi Consumatori, Movimento Anti-Equitalia, apri la tua sede anti-Equitalia. Lei l'annuncio l'aveva fatto qualche mese fa, adesso però ci spieghi un attimo, volete adesso fare un partito? No, adesso abbiamo fatto il programma, il progetto, è pronto all'organizzazione, c'è l'esigenza appunto di informare i cittadini, di essere riferimento per i contribuenti che purtroppo vengono aggrediti non tanto da Equitalia in quanto Equitalia, ma dai metodi disumani della riscossione utilizzati da Equitalia, che attraverso delle leggi che sono a mio avviso medievali, perché tra l'altro risalgono al 1973 e siamo nel 2012, si ossessionano e si perseguitano i contribuenti, poiché Equitalia con i suoi metodi è la causa principale della crisi dell'economia italiana, noi vogliamo che le tasse vengano pagate, ma in maniera trasparente. Ma adesso la causa principale della crisi dell'economia forse è un po' troppo, Pisani. No, da uno studio fatto proprio per... Voi dite che ha ammazzato più persone Equitalia della Camorra, vi rendete conto? Questo è un'affermazione pesante. È stato detto da alcuni esponenti, diciamo, politici, non da noi, perché non facciamo neanche un parallelo tra la Camorra e Equitalia, sono due sistemi diversi. Una cosa è la Camorra, una cosa è una società per azioni. Per noi Equitalia è una banca, un sistema bancario che con gli interessi, con le spese, con le more, guadagna sulle tasse che i cittadini devono pagare. Perché se è pur vero che in Italia si pagano le tasse più che in ogni altro paese del mondo, addirittura con Equitalia queste tasse vengono aumentate. Quando Equitalia dice che fa la rateizzazione dei debiti, altro non fa che dei leasing, perché al debito iniziale vengono aggiunti altri interessi e more, per cui il debitore si trova ancora più indebitato. Quindi sono i sistemi che noi combattiamo. Io non ho capito, ma voi che fate? Date consulenza alle persone che si rivolgono a voi? Date avvocati, professionisti? Il progetto è quello appunto di, prima, evitare altri suicidi, quindi evitare atti di violenza, le bombe, tutto quanto altro sta accadendo in questi giorni, in questi mesi, perché siamo contro la violenza e contro la degenerazione. Vogliamo che queste problematiche si risolvano con la cultura della legalità, con gli studi, e quindi diamo un riferimento, un'assistenza a tutti quei cittadini che effettivamente non sanno leggere la cartella esattoriale, perché è impossibile leggere una cartella esattoriale. Quindi vogliamo informazioni per i cittadini. Dov'è che siete presenti nelle regioni italiane? Perché non solo in Campania, anche in Piemonte ho letto. Sì, in 5-6 mesi diciamo che abbiamo radicato quasi in tutte le regioni Campania, nell'Italia una sede regionale, quindi abbiamo le sedi in tutte le regioni italiane e le stiamo sviluppando in tutti i comuni italiani. miriamo a arrivare a circa 8.000 sedi, quanto sono i comuni italiani, con un riferimento, un affiliato in ogni sede. Però a guardare questa pagina che c'è oggi sul libro, sembra davvero che, cioè la parte sopra sembra un annuncio, diventa agente antiquitale, sembra un franchising, per quanto curioso, come un altro. Poi la parte in basso sembra proprio un partito, c'è il simbolo. Tra l'altro, cosa c'è nel divieto rosso cerchiato in mezzo? C'è un simbolo che non si capisce. C'è un simbolo movimento antiquitario. Dell'equitale, quindi noi siamo il simbolo contro, proprio quello, sì. Contro, diciamo, i metodi della riscossione utilizzati da Equitalia. Quindi noi lo diciamo, tutte le tasse vanno pagate perché servono per gestire la nazione, lo Stato, ma vanno pagate in maniera trasparente, senza permettere a nessuno, soprattutto una società privata, di arricchirsi sul pagamento di tributi. Ma la società privata è pubblica, perché poi è proprietà è del tesoro. Formalmente dell'Agenzia delle Entrate dell'Inps, certo. Ma sostanzialmente è rimasta con gli stessi dirigenti, gli stessi impiegati e gli stessi metodi delle banche come era prima. Quindi è cambiato il nome, è cambiata la struttura societaria, ma il colosso, diciamo, la struttura è sempre quella delle banche che fino a qualche anno fa esigevano le tasse per lo Stato. Quindi la mentalità non è cambiata tanto, eh. Ma c'è l'intenzione da parte vostra di fare qualcosa di più, di una rete di questo tipo, di fare un vero e proprio partito? Perché insomma l'aria che si respira è questa. Sì, ma non sto io a dirlo, lo dice la gente, lo dicono anche i sondaggi. Ve lo chiedono? Sì, noi siamo già un partito, siamo il partito del popolo, il partito della gente. Il nostro primo obiettivo è far valere la sovranità popolare, quindi vogliamo anche candidarci alle prossime elezioni, perché miriamo a risolvere le problematiche quotidiane dei cittadini, e quindi il fisco, i tributi sono uno dei problemi che i cittadini devono affrontare e risolvere prima di ogni altro. Quando in uno Stato funziona il sistema fiscale, funziona la giustizia, funziona, diciamo, l'organizzazione, funziona tutto. Se questi tre sistemi non funzionano, purtroppo i nostri... Però Pisani, non fate troppa confusione, se le posso dare un suggerimento, perché tra l'aspetto di assistenza alle persone che hanno il debito con Equitalia e si rivolgono a voi per venirne fuori, e il movimento politico, c'è una bella differenza. Se no sembra che sfruttate i casi personali, singoli, per prendere voti, e questo, le spiego, non è così, questo non sarebbe corretto. No, le spiego subito, non è così. Allora, l'esigenza e la necessità di dare assistenza ai cittadini è appunto dovuto al sistema che non funziona. Quindi il sistema non funziona e noi cerchiamo di colmare queste lacune informando i cittadini su quali sono le tasse che vanno pagate e subito, e su quali sono quelle pretese che non vanno pagate, tipo le tasse prescritte, le tasse, le cartelle non notificate, le cartelle in decadenza. Ci sono tante somme che molto spesso non devono essere pagate, ma il sistema Equitalia rimette in circolo contro i contribuenti. Dall'altra parte, però, se noi non riformiamo il sistema, diciamo, statale, se noi non approviamo una legge di riforma fiscale, quindi con la sovranità popolare, non cerchiamo di cambiare questo tipo di democrazia che oggi non c'è, non risolveremo mai niente. Siamo sempre là a dare consigli, ma non possiamo ovviamente aiutare l'Italia a uscire da questa crisi. Però ripeto, tenendo distinte le due cose, perché un conto, cioè i partiti poi concorrono a prendere decisioni vincolanti per tutti, e invece qua quando si dà assistenza legale si parla di casi singoli. Perché purtroppo siamo abituati a partiti con esponenti politici che non hanno nessuna percezione della realtà. Ma perché questo è vero proprio in generale, cioè i partiti decidono per tutti, voi con la vostra associazione decidete per quei casi. Sono due cose distinte, che vanno tenute distinte. Però non tanto distinte, perché diciamo risolvendo l'una bisogna anche risolvere la causa madre, perché se non si risolve la causa madre saremo sempre là a dare consigli, a dare assistenza, ma il sistema fiscale non migliorerà mai. Noi invece vogliamo che il sistema fiscale migliori, non vogliamo fare le cause contro Equitalia, vogliamo risolvere il problema alla base, e lo si risolve con una legge nuova, una legge votata dai cittadini. Va bene, Pisani, grazie, ci saluti Maradona, ci sentiamo più avanti quando ci saranno sviluppi del suo movimento. Buona serata, grazie. Facciamo il giornale radio, naturalmente, e poi torniamo in diretta 800 24 0024. La Zanzara. 19 e 16 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati. Tra poco con i vostri interventi all'824 0024. Lanciamo anche il sondaggio sulla notizia, l'avete sentita, mutandoni sì o mutandoni no? Detto così è un po' brutto. La notizia qual è? È che al prossimo Miss Italia le concorrenti indosseranno costumi interi anziché i bikini messi in mostra nelle ultime edizioni. Ora, io immagino già i commenti dei maschi, soprattutto da bar, irriferibili su questo argomento, però insomma forse anche proprio noi maschietti su questo possiamo abbastanza serenamente ammettere che ci sarà un limite all'ostentazione del corpo, delle nudità femminili in televisione, ci sarà un limite o no? Semmai ci si può chiedere se questo limite la RAI sia giusto che lo ponga proprio in un concorso dove il protagonista è la bellezza femminile, allora sembra un po' contraddittorio, oppure no, oppure è giusto così. L'importante magari è non farlo solo a Miss Italia, altrimenti poi concorso censurato, potrà dire qualcuno, e dalle altre parti, nelle altre trasmissioni si continua a vedere troppo, se si vede troppo. Il nuovo corso alla RAI del direttore Anna Maria Tarantola, 800 24 0024, mutandoni sì o no? Aspettiamo anche su questo i vostri interventi. Intanto TG3. L'Europa non cresce, per la ripresa non basta la Germania. In Italia crolla la produzione industriale, nessun rinvio per il fondo salva stati. Il ministro Clini alla Camera, se chiude l'Ilva a rischio il sistema industriale, ma non vogliamo aprire un conflitto con la magistratura. Vertenza Winjet, vertice al Ministero dello Sviluppo, per Alitalia nessun margine di trattativa e continua la protesta degli 800 lavoratori a rischio. Il Quirinale al governo, i tagli alla spesa siano socialmente sostenibili, attenzione agli investimenti in innovazione, formazione e ricerca. In Emilia-Romagna alcuni politici pagavano con soldi pubblici per essere intervistati e comparire su televisioni e radio locali. Il mare delle coste italiane all'esame di Goletta Verde, inquinamenti in Calabria, Liguria e Campania, ma va meglio rispetto allo scorso anno. E per la siccità, produzione di cereali compromessa negli Stati Uniti e nei granai di Russia ed Europa centrale, e in Italia lievitano i prezzi dei prodotti agricoli. Così dunque il TG3. Adesso, come detto, ascoltatori, e allora riprendiamo il Giuliano da Reggio Emilia, che avevamo sentito che però non era buona qualità della telefonata. Giuliano ci ha atteso, grazie, buonasera. Sì, buonasera, buonasera. Eccoci. Complimenti per la trasmissione, grazie a voi. Ascolti, dunque, io volevo intervenire sull'affidabilità dell'Italia sul fronte investimenti all'estero, eccetera. Comunque ne approfitto per il discorso del maresciallo Graziani. Ho lavorato tanti anni all'estero, in particolare in Libia, in Etiopia, Eritrea, attraverso l'Arabia Saudita, eccetera. E sinceramente mi dispiace, sono dispiaciuto vedere onorare una pagina un po' vergognosa della nostra storia. E, insomma, da italiano mi sento di doverlo a questi popoli che sono stati veramente umiliati da un sistema che ha prodotto e poi assolto una cosa che per me è una vergogna. Comunque, per passare a quello che era il mio motivo di intervento, cioè l'affidabilità dell'Italia. Sì. Ecco, io. Ma in merito a cosa, scusi Giuliano, l'affidabilità dell'Italia? Sì. A quale argomento d'attualità si vuole legare? Sì, il fatto che Berlusconi possa rientrare come candidato. Sì. Che, cioè, comunque. Sì, insomma, la polemica sullo spread che potrebbe risalire, eccetera. Sì, sì. Prego, dica la sua. Cioè, in pratica, che affidabilità può dare la parte governante dell'Italia quando, per una intuizione, si era per esempio andati in Iraq attraverso quella lettera delle otto nazioni, eccetera, cambia il governo, partiti per una guerra, ce ne ritiriamo. che oppure si firma un trattato d'amicizia con la Libia e ci se ne fa un punto d'onore di andarla a bombardare come gli però altri. Mi scusi Giuliano, ma questo è una questione generale, no? Può succedere sempre che col cambio di governi, anche Obama ha proposto una politica estera meno interventista da questo punto di vista in Iraq e in Afghanistan, dopodiché ce ne faremo una ragione. Non so se lei però voleva mettere in linea qualcosa di più strettamente attuale rispetto a questo argomento o era una cosa generale? Io direi l'attualità che mi preoccupa di più è proprio la mancanza di affidabilità dell'Italia nei mercati all'estero. Cioè lei dice che quindi, se torna Berlusconi si perde continuità rispetto a quello che ha fatto Monti? No. Cioè Io, per esempio, ero presente in Libia quando Berlusconi ha visitato Sirte. Sì. Ero in Russia, ho fatto un lavoro di uno stabilimento per 2 anni. Va bene. E posso quindi dire che in questi paesi era stimatissimo. Mm-hmm. Stimatissimo. Cioè, in pratica, l'opposizione in Italia, ma lasciamo Berlusconi un attimo. Cioè, succede sempre che l'opposizione deve far andare male le cose per far vedere che siamo governati male. Quando invece, se si guarda, io guardo molto il Nord Africa, io farei l'Unione Mediterranea piuttosto che l'Unione Europea, cioè abbiamo più a che fare con la Libia che non la Norvegia. Sì. In ogni caso, questo è vero. Giuliano, fermiamoci qua perché il suo intervento è un po' ondivago e quindi evitiamo di perderci. Grazie comunque per quello che ha detto e salutiamo Valentino Tavolazzi. Buonasera, consigliere comunale di Ferrara, buonasera a tutti. Ex Movimento 5 Stelle, ex. Ma dipende dai punti di vista, possiamo dire ex se pensiamo al post di Beppe Grillo di marzo di quest'anno, in cui ha detto Tavolazzi e la sua lista di Ferrara sono fuori. E possiamo dire invece appartenente insieme alla lista di Ferrara di centro al Movimento 5 Stelle, sì. Se pensiamo ai rapporti che abbiamo, al legame che abbiamo con il Movimento, agli anni che abbiamo. Perché ecco, la notizia è proprio questa, cioè lei è stato espulso, questa è una vicenda di qualche mese fa, da questo posto di Beppe Grillo, dal Movimento, perché non avrebbe rispettato lo statuto del Movimento 5 Stelle. Ma la cosa interessante, oggi c'è un articolo con alcune anche credo sue dichiarazioni sull'Unità. Tavolazzi contro Casaleggio è il padrone del Movimento. Il consigliere comunale espulso da Grillo torna a denunciare la mancanza di democrazia interna al non partito grillino. E poi c'è la vicenda Pizzarotti, cioè lei è stato chiamato a Parma, però poi c'è stato un veto contro di lei per non farlo entrare nella squadra di Pizzarotti. Questo io non ho capito se è ufficiale o no. Lei ce la conferma questa notizia? Sì, è tutto vero. È tutto vero. C'è stato un post che io attribuisco a Casaleggio. Casaleggio, spieghiamo per chi non lo sapesse, è un consulente, il consulente di Beppe Grillo, mettiamola così. Eminenza grigia, secondo qualcuno, anche lei tra l'altro si mette tra questi, che dicono che Casaleggio decide tutto nel Movimento 5 Stelle. Comunque c'è un post che lei attribuisce a Casaleggio che diceva a gamba tesa nella vicenda di Parma, dicendo che Tavolazzi non poteva fare il direttore generale perché è estraneo al Movimento, cioè non compatibile, meglio. Diciamo meglio, Casaleggio era il consulente tecnico di Beppe Grillo fino a quando lui stesso non ha in un'intervista dichiarato il suo ruolo effettivo nel Movimento, cioè quello di cofondatore. Guardi che questa discussione che sta andando avanti da mesi, sì, sulla vicenda del ruolo di Casaleggio, della democrazia interna del Movimento 5 Stelle ed altri dettagli, è esattamente quella che ha consentito poi di far emergere il ruolo effettivo di Gianroberto Casaleggio nel Movimento 5 Stelle, che è quello del regista. C'è poi Beppe Grillo stesso che in un recente video che è stato pubblicato in rete un po' dappertutto, che dice con chiarezza quale sia il ruolo di Casaleggio. Testualmente dice: grande stratega della rete, il più grande che c'è oggi in Italia, ci siamo trovati nella mentalità, lui è il lato manageriale, il lato strategico, il lato degli obiettivi, io sono il lato artistico, il lato della faccia, il lato della reputazione. Mi sembrano parole molto chiare che in qualche modo confliggono, contrastano pesantemente con quanto è scritto nel nostro non statuto, articolo 4, che dice uno vale uno, la rete è nelle mani, il Movimento 5 Stelle, mi scusi, è nelle mani, il suo governo e gli indirizzi degli utenti della rete, i quali dovrebbero discutere, votare e arrivare alle scelte politiche del Movimento 5 Stelle appunto attraverso un lavoro in rete nel portale che tutt'oggi è inadeguato per svolgere questa funzione. Cioè, ma lei dice, insomma, perché il fatto che Casaleggio sia il mago della rete, che abbia un ruolo a fianco a Beppe Grillo, questo di per sé non ci sarebbe niente di straordinario, però lei dice questo invece no, contravviene alla regola del nostro statuto per cui siamo tutti uguali, tutti, è la rete a decidere. In realtà lei dice la rete è manovrata da questo personaggio che poi prende delle decisioni, come per esempio nel suo caso impedirle, ma mi spiega meglio com'è andata a Parma? Cioè, lei ha parlato con Pizzarotti, che le voleva fare il direttore generale? Sì, Pizzarotti mi ha chiesto di fare il direttore generale. Beh, un ruolo importante. Sì, un ruolo importante, un mestiere che io avevo già fatto. Perché lei è stato direttore generale a Ferrara, consigliere comunale, ha un passato da consulente aziendale pure lei, quindi sì, ha delle competenze in questo. E poi? E poi succede che il giorno dopo, due giorni dopo, esce il post di Casaleggio che dice no, Tavolazzi a Parma non ci deve andare. A questo punto ci sono anche lunghi contatti, telefonate, immagino fra il Federico Pizzarotti e Casaleggio. C'è anche una lunga telefonata fra me e Beppe Grillo di chiarimento, nella quale poi lui alla fine ammette di avere sbagliato nell'espellere Tavolazzi e la lista di Ferrara, però ha anche detto che non poteva più tornare indietro per non fare una figuraccia, ha usato un'espressione diversa, nel senso era la figuraccia. E lei dice a questo punto il Movimento 5 Stelle deve cambiare, perché così non si può più andare avanti in vista delle elezioni politiche, i sondaggi vi danno con grandi risultati, però così con questo sistema interno, che lei come definisce, dittatoriale? È verticistico, guardi, il Movimento 5 Stelle è la vera speranza per il nostro paese. Beppe Grillo, noi dobbiamo essere riconoscenti a Beppe Grillo, è riuscito a riallacciare, diciamo, a riconnettere delle nuove generazioni che si erano allontanate dalla politica attraverso un messaggio chiaro, la sua genialità e attraverso una serie di promesse di democrazia diretta, interna, di partecipazione diretta dei cittadini alla gestione della cosa pubblica, del bene collettivo. Noi questo dobbiamo fare, non cambiare il movimento, dobbiamo semplicemente realizzare le promesse che nei banchetti, nei marciapiedi, nelle piazze, migliaia di noi, e io sono uno che vale uno, sono uno della base, eletto consigliere comunale grazie all'apporto e all'appoggio di Beppe Grillo anche, che è venuto a Ferrara a sostenerci, noi abbiamo promesso questo ai cittadini e quindi è giusto che questo si realizzi. Siccome siamo molto lontani da questo risultato e io non vedo dei movimenti in quella direzione all'interno del Movimento 5 Stelle. Siccome siamo vicini ad appuntamenti elettorali importantissimi dove servono un programma nazionale, servono delle scelte politiche, serve un metodo per individuare i candidati al Parlamento, ebbene io dico mancano pochi mesi, non si fanno passi avanti nella direzione della democrazia diretta, rischiamo di diventare un movimento verticistico dove non è vero che uno vale uno, non è vero che c'è la democrazia diretta, quindi o ce lo diciamo davvero e ognuno poi fa le proprie scelte. Ma lei quale iniziativa vuol lanciare, un appello per rientrare a tutti gli effetti nel movimento con questa proposta che non so se avrà o no seguito di maggiore democrazia interna, chiamiamola così? No, guardi, il problema non è rientrare nel movimento perché, ripeto, noi, Ferrara, 100, intere liste espulse, quindi elettori e cittadini attivisti che si sono ritrovati fuori dal movimento, non ci sentiamo fuori, stiamo continuando a lavorare come prima. Ma potete utilizzare il simbolo, per esempio, Movimento 5 Stelle? Non possiamo utilizzare il simbolo alle prossime elezioni, ma non ci interessa, abbiamo un altro simbolo e facciamo la battaglia politica che abbiamo sempre fatto finora. Però lei fa anche una battaglia perché il Movimento 5 Stelle cambi e si riformi, questo mi sembra che lei vuol dire, no? Perché noi lo sentiamo nostro il movimento, abbiamo contribuito per il suo sviluppo. Gli ingredienti del movimento, le dicevo prima, sono questa genialità di Beppe, un messaggio chiarissimo, ma anche tanto sangue, sudore e lacrime di attivisti che hanno lavorato anni per fare questo progetto politico che oggi stenta, proprio nel momento più bello della sua crescita, stenta a diventare maturo, quindi un movimento democratico che funziona domani anche senza Beppe Grillo e senza Casaleggio, perché avrà formato al proprio interno la capacità di autogovernarsi attraverso un processo democratico che è quello scritto nel non statuto. Tavolazzi, consigliere comunale di Ferrara, eletto con il Movimento 5 Stelle, ci chiedono di spiegare perché è stato espulso, se no non si capisce. Io non l'avevo fatta questa domanda perché la questione risale a qualche mese fa, però se lo vuol precisare così diamo anche questa informazione. Tavolazzi. Ma guardi, c'è una motivazione ufficiale, sì. Quella di aver contravvenuto, infranto, non si sa bene quale articolo del non statuto. Poi ci sono state delle rettifiche da Beppe Grillo, sempre sul suo blog, ha detto che non siamo espulsi ma ci ha inibito l'uso del simbolo, poi ha detto che sono persona seria, competente, in buona fede ma ho la testa fatta a partito, e poi ne ha dette altre ancora. Ma quindi, per quale motivo non avreste... diciamo non avreste rispettato lo statuto? Su quale punto? Su quale questione? Guardi, c'è una discussione che è durata in rete da mesi, addirittura il Movimento Emiliano Romagnolo si è riunito in un'assemblea, ha fatto una lettera, una richiesta di chiarimenti a Beppe Grillo proprio per conoscere le motivazioni. Non sono mai arrivate motivazioni. Ma lei lo saprà, no? Non, guardi, io posso supporre, non lo so. Cosa noi, suppone? Io suppongo che non Ferrara solo, ma 100 e altre liste, Trento e altri ancora, sono pezzi, diciamo, di movimento che hanno condotto attività che vanno nella direzione della costruzione della democrazia diretta. Cioè lei ha sollevato questa questione della democrazia interna. Questa ha fatto scattare un tabù. Lo è ancora oggi, evidentemente. Poi vale la regola, detta chiaramente da Beppe Grillo, meglio Casaleggio perché la scrive lui, colpire uno per educare gli altri, e da qui lei faccia le sue considerazioni. Senta Tavolazzi, la questione dell'intervista, ovviamente lei non è che può parlare per gli altri, però è venuta fuori questa questione e anche il consigliere Emiliano del Movimento 5 Stelle ha detto beh sì, insomma anch'io pagavo, c'era un tariffario. Però l'Ordine dei giornalisti, l'Associazione della Stampa, ha aperto un'inchiesta interna perché pagare per fare una presenza in televisione, a parte di politici, probabilmente non è il massimo della trasparenza. I grillini però che sono sempre stati invitati dallo stesso Beppe Grillo a non partecipare, adesso però si scopre che pagando si partecipa. Lei che ne pensa? Ma guardi, le premetto e non sto sottraendomi alla sua domanda, che non conosco l'episodio. Io conosco molto bene Giovanni Favia, è uno dei nostri migliori consiglieri, è una persona seria, competente e davvero brava. Adesso ho aperto in questo momento un suo post che dice che ha acquistato uno spazio in forma di informazione autogestita. Uh-huh. Lo scopo è quello di utilizzare soldi pubblici per avere il massimo della comunicazione ai cittadini. Abbiamo previsto 200 euro al mese per avere questo spazio. Se noi non usiamo questa comunicazione, non siamo in grado di raccontare le porcate della giunta. Quindi lei capisce che trattandosi di uno spazio autogestito, se è vero quello che sto leggendo, se è autogestito sarebbe diverso, perché è chiaro, sarebbe come una pagina di pubblicità. Abbiamo parlato prima di quella di Pisani sul Libero. È diverso, ecco. Altra cosa è la partecipazione ai talk show, questo sarebbe diverso. No, la partecipazione ai talk show a pagamento non mi risulta. Mi risulta che abbia partecipato a degli spazi nei quali i cittadini telefonano direttamente in studio e fanno le domande ai consiglieri. Se questo è, dico che ha fatto bene a farlo. Se così non fosse, le chiedo scusa, non riesco a dare una risposta di merito, perché non conosco esattamente l'episodio. Naturalmente occorre dire che nel budget del Consiglio regionale, nei fondi che vengono destinati ai consiglieri, ai gruppi consigliari di tutti i partiti, c'è una voce che dice comunicazione delle attività dei consiglieri ai cittadini, e questa voce consente l'acquisto di volantini, manifesti e di quant'altro. Questo però per i consiglieri regionali. Lei è consigliere comunale, lei non ha mai pagato per andare in TV? No, assolutamente. Va bene, grazie Valentino Tavolazzi, buona serata. Grazie a lei, buona serata a tutti. E allora, questa è la vicenda interna al Movimento 5 Stelle, la vicenda di Ferrara, ne abbiamo parlato e vedremo come va a finire questo braccio di ferro, non so come volete chiamarlo, Casaleggio, Grillo, Tavolazzi, abbastanza interessante, perché sicuramente credo tutti si saranno fatti delle domande su come funziona il Movimento 5 Stelle, che è una specie di Giano Bifronte, cioè Grillo da una parte che sentenzia, pontifica tutto quello che vuole, giustamente seguitissimo dai media nelle piazze italiane, e poi il Movimento che però non si capisce poi quale articolazione interna abbia fino ad arrivare appunto al vertice. Casi come questo, quello di Parma, non sono chiarissimi, insomma, perché questo signore Tavolazzi, che Pizzarotti lo voleva come direttore generale, poi non ha potuto farlo. Questa è una domanda, insomma. 800 24 00 24, sentiamo Gaetano che ci chiama dalla provincia di Latina, buonasera. Pronto? Eccoci qua Gaetano, squillante. Buonasera, finalmente, è dalle 6:15 che sono. Lo so, sai, c'è stato Michiché, allora, che ha parlato per un'ora. Mi scusi, non voglio farle perdere altro tempo. Dunque, io volevo intervenire a proposito del signor Rodolfo Graziani. Dico signor Rodolfo Graziani perché il Graziani è stato condannato e a seguito della condanna è stato degradato, quindi ha perso la condizioni di militare, per cui non si può più chiamare né maresciallo d'Italia né generale. Il motivo della condanna, questi sindaco ieri non l'ha detto, è stato quello di aver optato per la Repubblica Sociale, quindi con il collaborazionismo con il nemico. Il Graziani era un ufficiale dell'esercito italiano, come tale aveva prestato giuramento, il giuramento, io sono anch'io un ufficiale, il giuramento di allora, che si faceva durante il Regno d'Italia, diceva: giuro di essere fedele al re, ai suoi leali successori. Quindi lui, optando per la Repubblica Sociale aveva tradito il suo giuramento, quindi non è affatto una persona leale, come dice il sindaco. A questo aggiungo che durante l'occupazione nazista di Roma, il Graziani consegnò in caserma ben 8.000 carabinieri per consentire ai nazisti di fare la razzia, la retata degli ebrei del ghetto. Non parliamo poi delle fosse ardatine e di tutti gli scendi, di tutte le cattiverie e i delitti commessi dall'esercito nazista in Italia senza che il Graziani abbia detto niente. Quindi, vabbè, Gaetano, un po' di precisazioni storiche, poi io non sono in grado di dire se quello che ha detto lei è giusto o sbagliato, così come anche su alcune cose che diceva ieri il sindaco. Intanto la ringrazio, perché devo dire che anche parlando un po' in giro di questa questione, molti mi hanno detto: Graziani chi? Cosa? Cioè, e poi anche questo che dicevo al sindaco di Affile, perché andare a imbarcarsi in una storia che guarda al passato su un personaggio, ripeto, quantomeno controverso, ma si potrebbe andare oltre, spendendo 150.000 euro dei soldi dei contribuenti in questo momento, dove mi sembra che le priorità siano tutt'altre. Comunque, Gaetano, non so se voleva aggiungere qualcosa, visto sì, che dalle 6:15 che aspetta, facciamolo parlare ancora. Sì. Dell'ultimo intervento. Ma sì. Pare che il signor Tavolazzi abbia detto che il Movimento 5 Stelle è l'unica speranza del popolo italiano adesso per le prossime elezioni. E se vuol dire che siamo ridotti proprio male. Vabbè, dal suo punto di vista, di uno che fa parte di quel movimento, è chiaro che lui ci crede, anche se con quelle precisazioni che abbiamo sentito, Gaetano, dice che lei che... Però sa che i sondaggi dicono che si viaggia su doppia cifra per Grillo, eh? Lo so, purtroppo, come siamo ridotti in Italia, insomma. Vabbè, lasciamo perdere, domani è Ferragosto, va. Cosa fa, la grigliata con qualche parente? No, vado da un amico, proprio dalle parti di... No, non mi dica che va al parco, che va a Filettino? No, a Filettino no, a Cassino, vicino Cassino. Ma lei conosce Filettino? Dovevano fare il Principato, dice, sa mica se... Sì, se... volevano fare il Principato. L'hanno fatto? L'hanno fatto. Il principe, l'avvocato Taormina. Carlo Taormina, sì. Carlo Taormina, vabbè, insomma... Insomma, la vostra zona riserva sempre un sacco di novità, Gaetano. Siete... Ma Taormina è una persona simpaticissima. Insomma. Siete pieni di fantasia avvocato. Da quelle parti. Vabbè. Prego? No, dico, siete pieni di fantasia da quelle parti. Beh, veramente, io sono salernitano. Si sentiva un po' che era un po' più giù. Sì. Vabbè, quindi domani va con un amico a fare una... Preferisco passare il Ferragosto con gli amici. Ci tenevo a fare questa precisazione su Graziano, perché ripeto, essendo io un ufficiale adesso in riserva, insomma, ritengo che il Graziano abbia tradito, ma lui lo fece perché era invidioso di Badoglio, insomma. Poi in forza andremo un pochettino studiata meglio la figura di Graziano, di Graziani e del suo contrasto con Badoglio, insomma. C'è stata sempre una grossa rivalità tra i due. Peraltro, aggiungo questo, mentre Badoglio era un ufficiale d'accademia, ha fatto l'Accademia di Modena, eccetera, eccetera, Graziani, se non sbaglio, proveniva addirittura dal complemento. Quindi non era all'epoca, tra la classe degli ufficiali, c'era questa distinzione. Quindi gli ufficiali che provenivano dal complemento, e soprattutto se avevano raggiunto poi alti gradi, erano visti un pochettino di malocchio. Dal complemento? Dal complemento, sì, credo che lui provenisse dagli ufficiali di complemento. Che cos'era il complemento? Scusi, che io non sono pratico di questioni militari. Allora, gli ufficiali di complemento sono quei cittadini che fanno il servizio militare come ufficiali. Sì. Si chiamavano, perché adesso, come le sai... Richiamato poi al momento del... Ufficiale di complemento, poi dopo evidentemente aveva fatto il concorso, si era raffermato, siccome non era uno sciocco, da questo punto di vista, era una persona, quando concerne il problema della Libia, del gassamento, diciamo così, degli abissini e via discorrendo, ma lui in quel modo si è comportato in quel modo perché ha obbedito agli ordini del governo di allora, insomma. Purtroppo erano altri tempi e la vita umana aveva un valore, soprattutto quando riguardava certi popoli, quasi uguale a zero, insomma. Quindi le cose vanno anche inquadrate nell'ambito storico, nel momento storico in cui sono accadute. La colpa di Graziano è per come si è comportato dopo l'8 settembre. Lui non avrebbe mai dovuto aderire alla Repubblica Sociale. Lui era un ufficiale, come tale, doveva essere coerente col suo giuramento, insomma. Non voleva seguire il re, come a fare, eccetera. Vabbè, insomma, si dimetteva, ma non, il giuramento non si tradisce. Grazie Gaetano, chissà se il sindaco ci sta ascoltando, Viri, questa lezione di storia da parte di un, soprattutto di un ufficiale, insomma di un... Lei era ufficiale? Semplicemente è una precisazione, questa qua. Sì, ma lei... Buon Ferragosto. Gaetano, ma lei era ufficiale, che cos'era esattamente? Io sono generale dell'aeronautica militare, attualmente in riserva in quanto sono andato in pensione, ma pensa di dirlo. Per raggiunti i limiti di età. Va bene. Ero generale di brigata, generale commissario dell'aeronautica militare. Va bene, grazie Gaetano. Così, questo è il punto di vista di un generale, avete sentito. E insomma, 800 24 00 24, sui mutandoni di Miss Italia non interviene nessuno. Ci sono un po' di SMS, vediamo se c'è qualcosa. Io la donna la preferisco vestita. Sono quasi tutti sul sì ai mutandoni sì, iniziamo da qualche parte, sempre 349-238-6666, Emanuele da Vicenza, e va bene, insomma, saranno più sexy le ragazze col costume intero anni 50, scrive un altro ascoltatore. Salutiamo il nostro prossimo ospite, Daniele Galli, deputato di Futuro e Libertà, buonasera. Buonasera a voi. Perché mentre il governo ragiona attorno a taglia la spesa pubblica e vara la spending review, c'è chi invece fa una proposta di legge per creare una nuova regione, una mini regione. Galli, lei sa che di questi tempi si assume la responsabilità di questa proposta di legge, una regione dei laghi a nord, invece di accorpare le province, lei le vuole moltiplicare. No, assolutissimamente no, guardi, è già una premessa totalmente sbagliata rispetto alla mia proposta di legge. Però io l'ho letto Guardi, io se non so se lei l'ha letta, ma... No, la proposta di legge no, ho letto però quello che dicono i giornali. No, in realtà lei vuole accorpare delle province. Guardi, si accorpano 5 province. Che appartengono a due regioni diverse, però, e questo poi e crea... quindi l'unico sistema guardi, è quello ai sensi della legge costituzionale, quello di proporre una legge costituzionale di aggregazione di territori presenti su due regioni diverse. Appunto, però vuol dire che si aumenta la spesa, anzi la si diminuisce. Un momento prima di arrivare alla spesa, però perché andarsi a, posso usare un'espressione così del popolo, a incasinare con una legge costituzionale per fare un accorpamento di province interregionale, non è un po' cervellotico, un po' complicato? Guardi, non c'è nessun altro sistema. Ai sensi dell'articolo 122 e 131 della Costituzione c'è un solo altro sistema, che sarebbe un'iniziativa di carattere popolare con tanto di referendum. Ma perché lei è convinto che queste province, adesso poi ci dica quali sono i territori coinvolti, così sì, sentiamo anche se stuzzichiamo qualche corda degli ascoltatori. Mi dica. Lei è convinto che queste province debbano essere omogenee in qualche modo e debbano far parte di questa mini regione? Ha fatto questa proposta di legge? Perché altrimenti, mi scusi Galli, altrimenti bastava accorpare province di regioni diverse e non c'era bisogno della legge costituzionale. Ma non si può. Ma non si può perché lei vuole mettere insieme quelle province? No, assolutissimamente. Guardi, lei non può accorpare territori provinciali di regioni diverse, lo impedisce la legge. Appunto, ma io dico, perché lei fa questa proposta proprio per accorpare province perché, di regioni diverse? Guardi, le spiego, il movimento che è evidente già da qualche decina di anni, in cui ci sono dei territori novaresi che vorrebbero accorparsi a livello amministrativo a quello che alla Lombardia, sì, e viceversa. E adesso sta nascendo l'idea possibile di una regione che è baricentrica fra questi due centri, fra l'area metropolitana di Torino e l'area metropolitana di Milano, e quindi una regione che ovviamente diventerebbe una regione estremamente snella, estremamente virtuosa sulle spese. Cosa significa essere virtuosa sulle spese? Glielo dico subito. Basta fare una regione in cui per statuto c'è un impiegato pubblico ogni, non so, 4.000 abitanti e non diciamo ogni 2.500 come adesso la Lombardia. E questo vuol dire automaticamente assimilare i territori e ridurre le spese. Sì, però io non ho capito, lei ancora non, forse ho capito male io, non le rifaccio la domanda. Che cosa hanno in comune, dunque, perché lei parla di Novara, Verbano, Cusio, Ossola, Varese, Como, Lecco, Sondrio, questo? Sì. Ecco, sì, perché, sì, lei, perché secondo lei queste province dovrebbero stare insieme? Perché proprio queste? Ma dal punto di vista storico queste province hanno una vocazione molto similare, hanno diciamo una struttura economica molto similare e diciamo storicamente appartenevano al Ducato di Milano, che poi con tutte le sue frange, tutte le sue evoluzioni, dal 700 sono diventate province piemontesi, quelle di Novara e del Verbano Cusio-Ossola. E su questa base però è chiaro che è possibile ad avere una diciamo un idem sentire rispetto a determinate posizioni e anche determinate sinergie rispetto alla vocazione principale che è di queste province, che è la piccola impresa e i grandi distretti, ad esempio del Valvolame, del tessile, che sono abbastanza reciproci anche sulle province lombarde. Ma e quindi i laghi non c'entrano no, perché i laghi si parla della regione dei laghi. I laghi, guardi, sono la parte che caratterizza. Questa è la cosa paesaggistica. Paesaggistica, ovviamente, ma turistica, paesaggistica. Lei dice non ci sarebbero, ci sarebbero dei risparmi addirittura. Visto che quando si fa una proposta di legge in genere, non so se è un obbligo, ma insomma si fanno anche i calcoli di quanto costa questa legge. Questa proposta che lei fa porterebbe a dei risparmi? Lei li ha calcolati? Oppure, no, non li ho calcolati, ma li posso riassumere sinteticamente quello che può avvenire. Allora, sono territori che si staccano da due regioni che sono abbastanza virtuose, essenzialmente più virtuosa la Lombardia rispetto al Piemonte. Ma che cosa succede? Ci sarebbe distacchi territoriali, quindi diminuzione dei consiglieri regionali in ambito delle due regioni. La nuova regione si costituisce con un minimo possibile di consiglieri regionali e potrebbe essere quello che è la possibilità di incardinare un sistema di nuova regione virtuosa tale da essere poi imitata dalle altre. Beh, però se lei, scusi Galli, ma se mi prende due regioni virtuose e me ne crea una terza che per emanazione è virtuosa anche quella, vabbè, siamo pari rispetto a quello che era prima, però abbiamo creato un'altra regione con un'altra sede, un altro presidente, un altro consiglio. No, ma guardi, ma ha risparmiato 5 province, sa? Ho capito, ma la logica del provvedimento, della spending review, è proprio quello, però non di creare altre regioni, ma di accorpare le province all'interno delle regioni. È evidente che se facciamo un'altra regione ci saranno dei costi, no? Questo è un altro discorso, guardi. La mia era stimolare un'opportunità e una possibilità in questo senso. Il rimanere tra l'altro è subentrato, mi scusi, in Parlamento nel 2012, cioè qualche mese fa. Certo. Perché c'è un sindaco che ha preso ruolo. Certo, della sentito della Corte Costituzionale. Tra l'altro lei era eletto nel PDL, però era passato nel frattempo al partito, se non ho letto male, di Magdi Allam, Io Amo l'Italia. Che fine ha fatto, tra l'altro? Quello non è un partito, quello è un movimento culturale. Non aveva aderito a questo? Ma quello sì, però non è un partito, è un movimento. E poi è entrato, però è passato a Futuro Libertà, sì. Ok, adesso lei fa parte del gruppo Future Libertà. Sì. Ripeto, però, la logica del provvedimento Spending Review è quello di accorpare, di diminuire le spese. Infatti. Però quello che lei sta dicendo è di creare un'altra regione, quindi insomma mi sembra che la sua proposta arrivi un po' fuori tempo massimo. Cioè, tempo fa si parlava di nuove regioni, di nuove province, fino a che poi accorti che questo non è più possibile, Galli. Questo le volevo dire. Insomma. Ma guardi, a mio giudizio è possibile, ed è possibile anche creare un ente estremamente virtuoso e un ente che costa molto meno di quelle che sono la realtà attuale. Guardi che non c'è nessun obbligo nell'approvare questa proposta, è una proposta di stimolo, però guardi che il sistema amministrativo nazionale deve essere rivisitato ai sensi anche della spending review, primo, secondo, terzo, quarto atto, vedremo quanti ci saranno di questi atti, ma bisogna inventarsi un nuovo modo di poter fare amministrazione, e questo potrebbe essere un sistema per iniziare a fare amministrazione diversificato rispetto a quello che è avvenuto finora. Ma diversificato in che senso? Io guardo iniziative nuove e le giudico sempre quando sono molto ben bilanciate, facendo bene i conti. Ma bilanciata in che senso una nuova amministrazione? Bilanciata nel senso che si sono valutati esattamente quelli che possono essere i costi e i vantaggi, ovvero il risparmio in questo momento. Ok, qualora mi scusi, non so se fa parte del suo lavoro di parlamentare, penso di sì, però qualora qualcuno faccia i conti e questa proposta di legge, come mi pare di poter dire dal mio punto di vista, ma non sono lì a fare il suo lavoro, porti a nuove spese, allora lei sarebbe pronta a ritirarla, perché, perché comunque lei parte anche lei nello spirito della spending review. Certamente. Però non dimentichi una cosa, che la possibilità di scelta della popolazione presente sul territorio è sancita dalla Costituzione, e pertanto qualora ci fosse un movimento o una fase referendaria da parte delle amministrazioni che fanno parte e vengono citate in questa proposta, la Costituzione ne garantisce la piena possibilità di agire. Cioè, lei dice un referendum in queste province per chiedere di rinnovare, eccetera, vogliono dire un referendum per chiedere di poter ottemperare ai disposti dell'articolo 132 della Costituzione. Chi glielo può impedire? Ma lei vuol fare un appello su questo? Vuol lanciare un movimento? Assolutamente no. Le amministrazioni sono liberissime di fare qualsiasi cosa. Io ho creato uno stimolo su delle esigenze reali presenti su questi territori. Va bene, grazie, staremo a vedere. Grazie a lei, molto gentile. Daniele Galli, deputato di Futuro e Libertà, avete sentito la sua proposta, una mini regione che coinvolga Comole, Cossondrio, Varese, Verbano, Cusio, Ossola, Novara, uno stimolo, ha detto lui, e staremo a vedere. 19 58 800 24 00 24, chi prendiamo? Davide che chiama da Prato, buonasera. Buonasera a lei. Buonasera. Mi sente? Sì, la sentiamo, prego. Benissimo. No, innanzitutto le volevo fare complimenti a lei per la trasmissione, che come viene condotta da quando non ci sono più gli altri due, sono in vacanza. Grazie. Perché è molto più piacevole e si parla di cose che ci interessano, non tanto dello sposalizio dei gay piuttosto che delle cose che sono rispettabilissime. Ma ora mi sembra ci siano altre esigenze più importanti, ecco. E mi piace anche come la porta avanti lei, perché è educato e ha un savoir-faire che... Educato, poi mi sono beccato però alle critiche di Miccichè, che diceva che avevamo fatto un'operazione di un certo tipo, cioè ieri invece il sindaco di Affile, vabbè, insomma, quindi... Come quest'ultimo sì. Politico, Galli, come si chiamava? Sì, sembrava, sì, Daniele Galli. Sembrava quasi un attore, cioè un comico, perché dice, ma lei ha fatto questa proposta, dice, si va a risparmiare, ma quanto? L'ha fatto il conto? No, però non so riassumere. Cosa riassume se non ha fatto il conto? Davide, però non so se lei sta usando un viva voce o un auricolare, perché va e viene. No, ho questo telefonino che non è il massimo della linea. Cioè, gli hanno dato uno scarto al negozio, gli hanno dato un vecchio, vecchio modello, Davide. Può darsi. No, ora mi fermo con la macchina, sentiamo se magari rimane più fissa. Sì, voleva aggiungere qualcosa? Se... Volevo aggiungere una cosa, nessuno sta parlando della spending review che oggi ha anche il Quirinale ha dato il suo ok, ma tutto sommato loro non si tolgono mai niente. Cioè la spending review la fanno sempre o sulla sanità o sulla scuola o su questo o su quello, ma mai sui loro stipendi, mai sulle pensioni d'oro che si sono fatte. Cioè lei dice mancano, vabbè, quello è stato sottolineato, sì. E quindi un bel taglio. Volevo soltanto rinnovare l'invito a tutti di andare a vedere il manifesto se l'hai dimenticato. Porca miseria, alle 9 la mattina, come si chiama, alle 9 in punto lì. Il nostro amico Oscar Giannino, sì. Per appoggiarlo e vedere se almeno con lui riusciamo a... Ecco, un endorsement di Davide da Prato nei confronti dell'iniziativa di Oscar Giannino. Bene, grazie sì. Davide. A lei, arrivederci. Buona serata. Andiamo a Vicenza o abbiamo qualcosa da far sentire? Ancora no, aspettiamo Vicenza. Antonio, buonasera. Sì, buonasera Antonio Schiavo. Eccoci qua. Sì. Io volevo dire riguardo a Graziani, no? Che per il paese è un'opportunità avere quel nome lì, la sfruttano. Anche se io. Sì, è un'operazione di turismo nostalgico, insomma, un po' come a Predappio, cioè. Quelli che venerano Graziani, che credo siano pochini in Italia, però magari avranno l'opportunità di andare lì. E per il paese sarà un mini flusso turistico garantito, però appunto spendendo un sacco di soldi a spese dei contribuenti su un personaggio così. Questa è l'operazione, Antonio. Scusi, non l'ho sentita bene. Loro diranno, è una frase famosa che io addolcisco un po', è un figlio di buona donna, ma è il nostro figlio di buona donna. Pronto? Vabbè, Antonio, questo voleva dire? Voleva commentare la questione di Graziani? Sì. Va bene, grazie. Andiamo a Ernesto che chiama da Roma. Buonasera. Ernesto da Roma? Sente? No, non la sentiamo. Abbiamo i titoli? No, non abbiamo ancora i titoli. Mauro da Milano, allora. Buonasera. Pronto? Sì. Non è Mauro, ma è Paolo. Mi scusi, sì, ho letto male io stavolta. Paolo. Sì, buonasera. Benvenuto. Grazie dell'invito. Volevo soltanto fare riferimento all'ascoltatore, cioè al che ha chiamato per il Movimento 5 Stelle, che era Tavolacci, mi pare. Tavolacci, no? Valentino Tavolacci, consigliere comunale Tavolacci, di Ferrari. Sì. Che vorrei... proprio mettimi in contatto, anch'io faccio parte del Movimento 5 Stelle di Milano. Bene, abbiamo fatto breccia, lei vuole entrare in contatto con Tavolacci, perché? Sì, perché la ragione è molto semplice, io credo moltissimo al Movimento 5 Stelle, conosco anche un'amicizia molto lunga di Beppe Grillo, lo conosco quando abitavo a Genova. Niente, quello che volevo dire è che quando io vado a queste riunioni del movimento le trovo un po' scoordinate, non c'è coesione tra i membri, non c'è coesione tra i... Volevo anch'io formarmi il proprio movimento, ma mi resta difficile perché non ricevo supporto. Quello che vorrei suggerire forse, quello che volevo scambiare anche l'idea con i vari Tavolacci d'Italia. Però Tavolacci, non Tavolacci, sennò sembra che lei lo prenda in giro. Tavolacci con la Z, scusa. Sì. E niente, che ci vorrebbe un coordinatore a livello regionale a livello di un punto di riferimento, perché se no sono tanti movimenti abbastanza sbandati fra di loro e non c'è una coesione fra di loro, non c'è omogeneità fra tutti questi movimenti a livello... Ma secondo lei c'è anche questo problema di democrazia interna? Perché quello che lei dice di coesione, vabbè, potrebbe essere dato dal fatto che il movimento è recente, il Movimento 5 Stelle, la cultura comune se la stanno costruendo e quindi c'è un po' di tempo. Così di disomogeneità. Non c'è tempo, ma c'è un problema. Ci massacreranno. Paolo, ma c'è anche un problema di democrazia interna che sarebbe più grave, dove, come ha detto Tavolazzi, non è proprio una dittatura di Grillo, ma. No, non credo. Non questo credo lei non sia, lo vede. Non credo che sia. Di culpabilizzare il Grillo sulla sua dittatura, non credo proprio. Lui ha un modo di fare, lui va per la sua strada, non è che il movimento deve seguire praticamente quello che Grillo predica. Lui fa le bellissime prediche e va avanti per quello che fa, ma il movimento dovrebbe organizzarsi all'interno, non lo vedo, non vedo l'organizzazione, quello che mi fa paura. E non essendoci questa organizzazione, quando arriveranno? Perché come fa un movimento? Non è che quello che diceva Tavolazzi, sì, io faccio l'assessore, ma l'assessore che cosa fa? Qual è il suo scopo? È quello di impedire gli altri assessori della controparte ad effettuare e a passare delle leggi? Ma non è quello il lavoro che deve fare il movimento. Il movimento deve lavorare sul livello nazionale anche. Va bene, Paolo, grazie. È tutto lì. Scusi, ma questa è la mia opinione. No, grazie, senza scuse. No, non c'è bisogno di scusarsi. Che buon Ferragosto anche a lei. E allora andiamo a Roberto da Roma. Adesso ci sente? Pronto? Roberto, buonasera. Buonasera. Eccoci qua. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Senta, io volevo intervenire a proposito dell'intervista prima che avete fatto a Tavolazzi. Sì. E volevo solo precisare alcune cose, perché allora Tavolazzi ha una grande capacità espressiva, quindi devo dire complimenti a come si esprime, le cose che dice, come le dice. Purtroppo alcune volte le mezze verità poi diventano falsità, perché gli spunti sono tutti veri, quelli di cui hai citato, tipo la sua esclusione dal discorso del Movimento 5 Stelle, ma non è come l'ha messa lui, cioè non c'è stata una rettifica come se Beppe Grillo si fosse ravveduto di un suo errore, no, è stato fin dal primo momento, è stata una dissociazione da parte di Grillo per alcuni atteggiamenti che Tavolazzi ha avuto, tanto più che Tavolazzi da questo punto di vista rappresenta un po' l'emblema che il Movimento 5 Stelle combatte, perché contrariamente a quello che fanno tutti i partiti, i protagonisti dei partiti attuali, nessuno di noi cerca la ribalta, nessuno cerca il primo piano, cioè il politico di tradizione e di mestiere è una cosa che non fa parte del Movimento 5 Stelle, cosa sulla quale invece Tavolazzi sembra abbastanza navigato. Quindi quello è già un primo punto per il quale il suo atteggiamento... Cioè lei dice che di fatto, Tavolazzi di fatto si mette fuori dal movimento perché cerca protagonismo da parte sua, invece il Movimento 5 Stelle non va avanti con... Però non lo so se... Allora, guardi, aspetti Roberto, preciso solo una cosa, non perché faccio l'avvocato di Tavolazzi, ma perché mi sento di poter dire questa cosa. Cioè lui è stato chiamato in ballo nel momento in cui... è stato espulso dal movimento, allora è chiaro che si è creata una personalizzazione, perché come fai a non personalizzare? Con la Zanzara ci risentiamo domani, puntata di Ferragosto. Buona serata a tutti. Radio 24, la passione si sente.